la vostra macchina di indossare le cinture di sicurezza. Ora guardiamo se riuscite ad ottenere la vostra posizione ottimale di guida. Prima cosa, mentre state guidando, potete essere sicuri che il vostro bacino sia indietro contro lo schienale, meglio seduti sul sedile, che c'è questo arco, questo lavoro dei muscoli della parte lombare per darvi supporto, e che avete le spalle e i gomiti verso il basso, senza fissare eccessivamente gli occhi mentre state guidando. Notate il traffico che vi passa vicino in tutte le direzioni, il movimento che vedete davanti a voi, ed ora fissate come generalmente fate mentre guidate, quindi fate la faccia che generalmente avete quando state guidando nel traffico. Potete tenere lo sguardo rilassato, come tenete la mandibola, tenete i denti allontanati l'uno dall'altro mentre state guidando. Ed inoltre, mentre guidate, non cercate di mantenere sempre un'unica posizione. Non dovete quindi rimanere fermi nella stessa posizione rigida, fissa. D'altra parte, controllate di essere seduti in modo da avere sempre una specie di arco nella zona lombare, in modo da sentire il lavoro nei muscoli nella parte bassa della schiena, e quando siete stanchi collassate, riposatevi e andate pure indietro appoggiandovi al sedile, e poi ritornate nella posizione in avanti, vale a dire basculando il bacino in modo da provocare un arco nella parte lombare, lasciando sempre spalle e parte alta della schiena appoggiate allo schienale. Naturalmente, quando siete indietro con la schiena appoggiata alla parte lombare della schiena appoggiata allo schienale, sentirete un po' di dolore se rimanete fermi in questa posizione, oppure senz'altro vi affaticherete. Adesso di nuovo per alcuni minuti inarcate la schiena verso avanti, quindi movimento a vascola in modo da tenere inarcata la parte lombare. Di quanto inarcamento nella parte bassa della schiena, della parte lombare, avete bisogno o volete? Probabilmente, se state facendo un viaggio molto lungo, dovete cambiare il grado di inarcamento della parte lombare ai vostri ritmi, ai vostri anche di grado, a seconda delle necessità che avete. Se non sapete come fare questo movimento, rifate il movimento che avevamo fatto nella prima parte della cassetta quando eravate seduti con la macchina ferma. Ora, per trovare la vostra posizione ottimale mentre guidate, dovete fare continui cambiamenti in modo che tutti i muscoli siano continuamente implicati nel movimento, continuamente usati. Mentre rimaniamo seduti avanti con questa specie di inarcamento della parte lombare e naturalmente sempre le spalle e la parte alta appoggiate al sedile, potete spingere verso il basso la parte destra del bacino, lasciare che la parte sinistra si sollevi, e di nuovo potete fare la stessa cosa spingendo la parte sinistra del bacino verso l'alto e la parte destra verso il basso. E come abbiamo fatto prima nella cassetta dal lato 1, cercate di fare questo movimento senza aggrapparvi al volante e alternando il movimento, sollevando una volta l'anca destra e una volta l'anca sinistra. Continuate a fare questo movimento cambiando la pressione da un lato all'altro in modo da trovare e sentire diversi muscoli che lavorano, e che sono i muscoli della cintura e dell'addome che si muovono. Muovendosi in questo modo da lato a lato e tenendo inarcata la parte lombare, dovreste sentire meno pressione e quindi meno pressione e minor tensione. Lavorando così dovreste avere meno problemi di dolori e di tensione nella schiena e arriverete così ad avere meno problemi di schiena e ad usare l'intera organizzazione del nostro corpo cambiando la pressione e diminuendola in modo da ridurre lo stress della pressione in qualsiasi zona muscolare. Per esempio, potete lasciare che tutto il vostro corpo si collassi e quindi che il torace si abbassi e quindi anche la testa e quindi che la vostra schiena si appoggi per bene indietro e quindi per esempio potete proprio arrivare a mettervi in modo di sentire male, adesso è una posizione che vi dà fastidio e vi renderete conto che semplicemente con questo movimento arriverete ad avere molto dolore, molto fastidio e certe persone facendo questo sentono dei dolori molto acuti, molto forti. Vedete che è qualcosa che avviene e che si realizza nel modo nel quale muovete voi stessi. Così potete cambiare questo modo aumentando la consapevolezza e facendo diminuire la pressione lungo tutti i punti e le parti zone muscolari del corpo. Rimanete così in una posizione di guida da voi trovata e arrivate probabilmente a trovare anche proprio la vostra posizione ottimale per guidare. Spostando il peso quindi in diversi modi senza produrre stress muscolare o tensioni eccessive. Ora, mentre guidate, cercate di essere sicuri di non fissare eccessivamente con gli occhi, ma di avere uno sguardo non rigido e contratto. Rilassate quindi la mandibola ed il viso. E questa non è una cosa che dovete fare solo nella vostra macchina mentre guidate, ma è qualcosa che fate con gli occhi sia quando state camminando che quando state facendo una passeggiata e quindi in varie situazioni e condizioni. Quindi rendete lo sguardo meno fisso e vi accorgerete quindi che diminuisce lo stress e la stanchezza nella faccia e nella nuca e riuscirete quindi a vedere molto di più attorno a voi e molto più chiaramente. Vi renderete conto quindi che è più facile tenere sotto controllo il traffico mentre avete questa visione molto più ampliata. E come abbiamo fatto mentre facevamo i movimenti dell'altra parte della cassetta, vi renderete conto che è molto più facile anche ruotare la testa e guardare da un lato all'altro, a destra e a sinistra. Ora, mentre guardate al traffico tutto attorno a voi, tentate di fissare gli occhi, di irrigidire la faccia, magari state stringendo i denti, la mandibola, le labbra sono strette e contratte. Come state respirando? Come sono i muscoli della nuca, i muscoli della schiena? E vi renderete conto della pressione che provocate lungo tutto il corpo. Ora provate a rilassare la faccia, sorridete, rilassate il viso. Succede che quando la persona sorride accade tutta una serie di variazioni a livello di coordinazione nervosa per cui la persona si sente molto meglio e constaterete che è molto più difficile stringere i denti e contrarre il mento mentre state sorridendo. Voi capite quello che voglio dire. Ora, Vi ricordate quei movimenti che avevamo fatto nel lato 1 con la spalla, descrivendo dei cerchi in una direzione e nell'altra? Vedete se riuscite a farli mentre state guidando senza irrigidire lo sguardo, respirando, tenendo la vostra faccia rilassata. Ora, mentre fate questo movimento, che spalla riuscite a muovere meglio, che spalla invece è più difficile? E continuate a fare questo movimento finché riuscite a muovere entrambe le spalle e nello stesso modo, sempre con movimenti molto lenti, piccoli e continui. Questo movimento di circonduzione della spalla è uno dei movimenti più efficaci per riuscire a rilassare la zona tra le spalle e la nuca. Chiaramente, mentre lo state facendo, continuate a mettere attenzione a tutto il traffico davanti a voi. Ora vediamo se riuscite di nuovo a trovare la vostra posizione ottimale nella guida o se forse l'avete persa. Prima cosa, potete sentire come è messo il bacino sul sedile e come sono i piedi sui pedali. Potete sentire l'ambiente attorno a voi, sia fuori, davanti, tutto lo spazio che vi circonda. Com'è la vostra respirazione, il vostro respiro? Bene, ora aggiungiamo una variazione, un lavoro con il respiro. Vi ricordate i movimenti abbinati alla respirazione che avevamo fatto nel lato 1? Mentre inspiravate c'era un'espansione del torace, mentre espiravate c'era un'espansione dell'addome. Bene, ora quando siete seduti nella vostra posizione ottimale per guidare, continuate a mettere l'attenzione a questo lavoro di respirazione, quindi a inspirare espandendo il torace e ad espirare espandendo l'addome. Quindi mentre espirate immaginate di sentire la pancia come un pallone piena di aria. Allora quando inspirate la pancia viene tirata indietro verso l'alto, il bacino si espande e continuiamo molto lentamente. Quindi quando espirate la pancia viene spinta verso fuori come se fosse un pallone. E continuate ad alternare inspirazione ed espirazione in questo modo. Fate attenzione nel fare questo a tutto il traffico che c'è attorno a voi, ai semafori, alle persone che attraversano le strade, ai vari crocicchi e vedete se avete abbastanza attenzione per fare entrambe le cose. Cioè mettere l'attenzione sia sul movimento di inspirazione ed espirazione ottimale e guardare il traffico attorno a voi. Ora potete rendere questo movimento di respirazione ancora più semplice, quindi quello che dovete fare è non fare un movimento così grande, ma fare un movimento semplice, inspirando, gonfiando il torace ed espirando, buttando fuori la pancia senza farlo agli estremi, al massimo. Vi renderete conto che se continuate a respirare in questo modo è una cosa che vi diventa naturale. Ora, se irrigidite in modo significante qualsiasi gruppo muscolare, vi renderete conto che inibite la respirazione e inizierete a sentirvi anche stanchi, tesi e magari con qualche dolorino. La prossima cosa che stiamo per fare è questa, quindi mentre guidate cercate di aggrapparvi molto con le mani al volante e notate cosa accade nel resto del vostro corpo quando vi attaccate in questo modo al volante. Potreste rendervi conto che forse il vostro torace si è irrigidito molto e quindi anche il respiro si è bloccato. E così non aggrappatevi in modo rigido al volante, ma lasciate che i vostri gomiti scendano, che le vostre mani siano semplicemente appoggiate sulle posizioni 2 e 10 dell'orologio, e per quel che riguarda la mandibola, controllate se la state contraendo o no, e se trattenete il respiro ci sarà molto lavoro nella nuca. Le persone naturalmente hanno dolori nella nuca perché irrigidiscono il mento e la mandibola, quindi tenete rilassati i muscoli della mandibola. Ora provate a irrigidire i muscoli dell'addome e del torace. Molte persone guidano per tutto il tempo in questo modo e quindi per forza trovano faticoso guidare. Ora lasciate andare la tensione che avete provocato nel torace e nell'addome. E ora portate di nuovo la tensione su torace e pancia, e rilassandoli, e poi di nuovo irrigiditeli, e riportando la tensione su di loro, e poi rilassateli. Quindi giocate, fate una specie di ping pong, alternando contrazione di torace addome e rilassamento di torace addome. Mentre fate questo, chiaramente controllate il traffico e tutto quello che succede attorno a voi. Quindi non solo attenzione al traffico attorno a voi ora, ma anche attenzione verso voi stessi. Cominciate ad usare come esercizio quello che era il vostro modo abituale di guidare in stato di tensione. E quindi continuate in questo passaggio dallo stato di tensione di addome e torace allo stato di rilassamento attraverso questo esercizio. Chiaramente noi impareremo a tenere e contrarre di meno la nostra muscolatura quando noi siamo consapevoli e siamo capaci sia di irrigidirla che di lasciarla e di decontrarla. Quindi usiamo di questo atteggiamento, ripeto, che noi generalmente abbiamo come un esercizio per migliorarci. Molte delle tensioni che noi abbiamo quando finiamo un viaggio, finiamo di guidare, sono tensioni delle quali noi non siamo consapevoli, delle quali noi non ci siamo mai accorti, che in un certo senso ci hanno presi. E alla fine noi sentiremo fastidio e anche magari dolore. E questo è il risultato della tensione che noi non abbiamo mai notato mentre guidavamo. Così quello che stiamo facendo è il lavoro di irrigidire e rilassare l'addome e il torace, è una cosa che può essere molto faticante, ma che va fatta come se fosse un esercizio. Ok, ora riposatevi e continuate a guidare guardando tutto attorno a voi, il traffico, la strada, i semafori e tutto quello che vi capita davanti agli occhi, e facendo attenzione al senso di spazio attraverso il quale vi state muovendo. Naturalmente, mentre andate avanti con la guida, non dovete fissare ogni cosa e irrigidirvi, ma lasciate che la luce e le cose, proprio attraverso la vista, entrino nei vostri occhi. Bene, adesso potete lasciare che la vostra schiena proprio si collassi tutta all'indietro, quindi non tenetela più inarcata. Lasciatevi proprio cadere sul sedile contro lo schienale e noterete che succede che il torace tende ad abbassarsi verso il basso e quindi anche il livello della testa si abbassa, c'è tutto un collassamento di voi stessi e di conseguenza il bacino va all'indietro, il torace si collassa, il livello della testa si abbassa e rimanete in questa posizione e notate cosa state facendo con il respiro. Probabilmente non respirate. Potreste dire come vi sentite dopo mezz'ora di guida in questa posizione, se vi sentite rilassati, leggeri o veramente male? Ora usciamo da questa posizione orribile e trovate la vostra posizione ottimale per guidare. lasciate che ci sia un movimento vascolare del bacino, quindi ci sia un leggero inarcamento della parte lombare e quindi un innalzamento del torace, di conseguenza la testa si innalza verso il soffitto. E quindi lentamente riaggiustate la vostra posizione di guida, vi sentite a vostro agio nel fare questi movimenti, se non dovesse essere così ritornate indietro e rifate il lavoro che avevamo fatto sulla cassetta 1 e continuate a rifarlo fino a che questo movimento, questo lavoro vi riesca molto semplice. Mi farebbe piacere che questa posizione ottimale per guidare diventasse per voi qualcosa di automatico e di molto facile, ma voi non dovete pensare a questo, lasciate solo che il vostro corpo se ne stia seduto e tenete gli occhi senza fissare eccessivamente ogni cosa. E controllate come siete messi con tutto il vostro corpo, se state facendo un lavoro eccessivo, se state super lavorando con determinate parti muscolari, oppure controllate anche se state semplicemente trattenendo il respiro, quindi se il respiro è facile o no, come respirate, e questo poter respirare facilmente vi terrà in stato di allerta. Siate sicuri che la vostra posizione ottimale di guida sia confortevole e piacevole e che potete muovervi. La posizione ottimale di guida non è completamente appoggiati al vostro sedile e schienale, ma è una posizione che vi permetta velocemente di poter fare cambiamenti come prima cosa e seconda che vi permetta di farli senza sforzo. Quindi vedete se trovate delle posizioni nelle quali per un po' di tempo vi sentite a vostro agio, oppure se vi rigidite e contraete in una posizione fissa, e quindi questa sarà una posizione nella quale sarà poi molto più difficile muoversi. Per esempio, molte persone, alcune, si siedono sul sedile in una posizione tale dalla quale non si possono più muovere e quindi quando devono fermarsi ed uscire dalla macchina hanno bisogno di fare tutta una serie di aggiustamenti per poter uscire, muoversi e scendere dalla macchina. Non possono cambiare e fanno fatica ad uscire perché i loro muscoli sono diventati troppo deboli e troppo rigidi nella posizione nella quale rimangono. Invece nella posizione di guida ottimale voi dovete essere capaci di uscire, di muovervi molto velocemente, poter uscire dalla macchina senza fatica. Quindi siete in grado di ruotarvi verso la porta della macchina e scendere senza eccessiva fatica. Potete rivedere e ascoltare questa cassetta ogni volta che state guidando, che siete in mezzo al traffico, e se ci sono problemi per quel che riguarda fissare eccessivamente gli occhi, la posizione inarcata della parte lombare oppure la posizione ottimale di guida, rivedete i movimenti oppure i movimenti circolari della spalla, rivedete i movimenti che abbiamo fatto nel lato 1 chiaramente quando siete fermi e parcheggiati di lato alla strada. Spero che questa cassetta vi sia servita e la combinazione di imparare a trovare la posizione ottimale attraverso la riduzione di dolore e di stress può essere un ottimo risultato sia per prevenire questo dolore e questo stress, ma anche per aumentare la vostra leggerezza, quindi sentirvi meno pesanti, e anche la vostra responsabilità nella guida. Succederà così, almeno speriamo, che si sarà capaci di prevenire in questo modo anche incidenti. Molte grazie, rilassatevi, divertitevi, sbizzarritevi nel vostro guidare. E ricordate che ogni persona che diventa un miglior autista è una cosa buona per ciascuno di noi.